24 mattino. Cominciamo con le belle notizie. La prima bella notizia è che il Papa ha detto no all'accanimento terapeutico. Il motivo? Gli italiani soffrono già abbastanza a vivere in Italia. Eccoci qui, sono le 7:20, scoccano 28 secondi in questo momento e io, Luca Terese, sono qua per raccontarvi la giornata di oggi, la giornata di carta, la foresta delle opinioni, delle notizie, delle tante avventure che i giornali intercettano. Allora comincio con la lettura dei titoli, come sempre, il Corriere della Sera, venduti i segreti del governo. Una notizia esclusiva di Luigi Ferralella, l'inchiesta sull'esperta che passava a un'agenzia le notizie, pensate, riservate del Ministero dell'Economia. Sono cose da pazzi, matari. E poi c'è una fotona molto grande, è l'apertura di pagina 2 e 3, la rivolta dei taxi che tiene in scacco la città e la politica, il pezzo di Antonella Baccaro sullo sciopero dei tassisti di ieri e sulle manifestazioni di piazza. Libero, il dominio degli incapaci. Italia paralizzata da incompetenti allo sbaraglio, e ci sono 2, 4, 5 foto. Sono Giuseppe Sala, Paolo Gentiloni, Piercarlo Padoan, Luigi De Magistris e Giampiero Ventura. Sala pensa ai migranti e se ne infischia se Milano ci smena 2 miliardi. Ci smena, sì, così. Gentiloni e Padoan strapazzati dai burocrati perfino peggiori di loro. De Magistris si vanta di aver salvato Napoli, ma tutto è come prima. Ventura ci ha portato fuori al mondiale, però riscuote 700.000 euro. Il fondo è di Renato Farina. Chi? Fabrizio ritrova il sorriso in famiglia dopo la malattia. Forza Fabrizio. Beh, è una foto con la moglie, non possiamo che condividere. Repubblica, la nuova Repubblica con tinte soavi, degli azzurri pastello, il nuovo carattere, l'Eugenio che lo fa sembrare un po' un giornale spagnolo, forse riguarda, occhieggia un po' al país. E questo è il primo giudizio che ho, a me piaceva molto anche prima. Il Manifesto, quelli senza, c'è una foto di una manifestazione di piazza. Un'occasione persa per giovani e donne, così Susanna Camusso risponde alle offerte del governo sul pacchetto pensioni. Giunto al terzo e ultimo round, la CGIL dice no e chiama alla mobilitazione per il 2 dicembre. Dalla parte del governo ci sono CISL e UIL. Intervista di Chiara Saraceno, impossibile lavorare fino a 75 anni. La Verità, come pagare fino al 30% in meno di Tari. Rimborsi solo dal 2014 per le bollette sbagliate. Chi fa la raccolta differenziata e il compostaggio, racconta il quotidiano di Maurizio Belpietro, ha la possibilità di ottenere forti sconti sulla tassa per i rifiuti, ma pochi lo sanno e non tutti i comuni applicano le stesse regole. Vi spieghiamo i passi da compiere per vedere garantiti i vostri diritti. Gianluca Baldini firma questo articolo. C'è poi una grande foto di Romano Prodi, una foto d'epoca, quando Prodi elogiava l'Italia senza negri e incitava a lasciarli fuori. Questo è molto curioso, è un pezzo d'epoca del professore sul Corriere della Sera, pensate, 40 anni fa, però il titolo sembra proprio datato. L'Italia è diversa e mancano i negri, questo era il titolo di un fondo sul ritorno del lavoro manuale. Il fondo di Belpietro, tre ragioni per cui non ci mancherà la Merkel. La Gazzetta dello Sport, sempre più Insigne, e racconta l'impresa del Napoli di ieri dopo un primo tempo difficile, studiato, molto patteggiato, è esplosa la vittoria degli azzurri, i ciucci, con il tiro a giro stupendo di Insigne che ha aperto la strada a un 3-0. Da una Champions all'altra, il Messaggero, Roma stasera la prova in maturità, a Madrid l'Atletico obbligato a vincere, e poi l'apertura totale, quasi a tutta pagina, pensioni, il governo sfida la sinistra, offerta all'esecutivo dei sindacati per le donne, anticipo più facile, conferma di tutte le agevolazioni, la CGIL dice no e mette a rischio il piano, l'emendamento in Parlamento, l'incognita del voto MDP. c'è un pezzo bello di taglio, di quelli che piacciono a me. Occupanti e ricchi, il Campidoglio sfratta i furbetti della casa. Lettera dell'assessore a 2000 inquilini abusivi, avete redditi alti e togliete l'alloggio ai bisognosi. Ale! Il Fatto Quotidiano, Rai Flop, domenica in chiude, pensate, lo annunciavamo prima, per due settimane sono tante. E però il titolo a tutta pagina è: il governo punisce Torino, Movimento 5 Stelle, e versa l'IMU solo a Caserta, PD. È un'interpretazione un po' come dire tagliata con l'accetta, però due città, due misure, due emendamenti uguali, uno passa, l'altro no. Il fondo di travaglio, Totò e Fassino divisi a Berlino. Il Giornale. Allora, l'apertura sul soppalco, i tre Ventura che hanno perso l'EMA, Gentiloni, Alfano e Gozzi, tutti gli errori del governo. Lo avete sentito, era in qualche modo dispiaciuto Maroni ieri ai nostri microfoni quando diceva non li ho visti. Il Fondo di Sallusti, cattivissimo come sempre, Di Battista finto mammo con i soldi di Berlusconi, da deputato a scrittore, perché qui il legame sarebbe che Di Battista pubblica libri per la Mondadori, boh. La CGIL sfrutta i pensionati, poi vedremo meglio, non è un boss sarcastico, è che devo vedere i titoli. Usati contro Renzi, la CGIL sfrutta i pensionati, questo è il titolo di prima pagina. Sciopero sulla riforma, ma è solo per aiutare i Bersani. Il Tempo, la Raggi bastona solo a destra, colpisce uno per salvarne 100. Affittopoli, la sede del movimento sociale Colle Oppio, assegnata in soli 20 giorni, gli altri furbetti, a cominciare dalle femministe, non li tocca nessuno. E poi però vedete che tiene banco il caso di Dibba, elogio di Dibba, un rivoluzionario che tiene famiglia. E Marcello Veneziani scrive: ode al grillino che va in congedo parentale. Avvenire, pensioni senza pace, Gentiloni apre, proposte sugli sconti alle donne, CISL e UIL apprezzano, CGIL non ci sta e si mobilita. Copione da riscrivere è l'editoriale, strategie troppo vecchie su welfare di Francesco Riccardi. Il Foglio, la guerra della modernità al diverso passo dallo sterminio dell'aborto, dice il Papa, e noi lo sappiamo bene. No, la Francia non è un miracolo, un pezzo sulla Francia di Macron. La Roma vuole tutto, è la foto di un allenamento con Nainggolan, Perotti e Dzeko che prelude alla partita di questa sera, la Champion giallorossa. E infine il Sole 24 Ore, ci sono due notizie molto importanti su questa pagina. In banca la rivoluzione dei bonifici istantanei, lo spiegheremo fra poco. In campo 17 istituti europei per rispondere alla modernizzazione delle app e dei trasferimenti di denaro, in un secondo il bonifico e poi ovviamente l'equo compenso, 2 anni per i ricorsi dei professionisti. Torniamo fra qualche istante, ora prendete il meteo. Curiamolo, leviamogli il metadone. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino. Lei, se dovesse scegliere tra Di Maio e Berlusconi, affidare il paese a uno dei due, quale sceglierebbe? Sceglierei Berlusconi. La castorizzazione, dice Castelvecchi, cioè la necessità di fare barrage, barriera, diga contro il male minore, porta Eugenio Scalfari nella sua lunga vita a fare questa dichiarazione scioccante. Voterebbe contro i 5 Stelle, anche a favore di Berlusconi, pur di fermare i grillini. Allora, vi dicevo, sicuramente il tema delle pensioni domina su tutte le pagine, quindi non si può non leggere. Inizio da Repubblica, Roberto Mania, Camusso in piazza, apripista di MDP, Conte al lavoro, nessuno scambio. Il 2 dicembre manifestazione della CGIL, scrive Mania, stiamo parlando di Repubblica, la nuova Repubblica, pagina 11, alla vigilia della convention di Bersaniani e Sinistra Italiana, Landini, nemico comune e l'egemonia del mercato. Massimo Giannini fa un fondo su Repubblica, la cinghia fuori tempo e la lezione di Trentin, cioè parte citando alcuni brani dei Taccuini da poco pubblicati, molto belli, di Trentin. E poi fa questa considerazione: di fronte a tanta macelleria sociale, cioè le politiche del governo sul piano previdenziale e del welfare, è evidente che Gentiloni e Poletti hanno messo sul tavolo un piatto di lenticchie. I 300 milioni per salvare altri 20.000 lavoratori dallo scalone del 2019 sono quasi niente. Ma dire no adesso, aggiunge Giannini, quindi che dà conto di alcune ragioni alla Camusso, ma poi la critica, ma dire no adesso e annunciare una mobilitazione per il 2 dicembre serve a un quasi niente, uguale e contrario. Il sindacato, tutto il sindacato, avrebbe dovuto mobilitarsi quando era il momento. Le tre ore di sciopero fine turno contro la legge Fornero il 12 dicembre 2011 passarono inosservate e più come la manifestazione delle sole CGIL e UIL del 25 ottobre 14 a Piazza San Giovanni e poi un timido sciopero successivo. E quindi dice: dovevo opporsi prima, adesso è troppo tardi. Il titolo di Repubblica, Valentina Conte, pagina 10, pensioni CGIL contro tutti, più uscite prima dei 67 anni. Su questo tema, sul Sole 24 Ore, c'è un editoriale, ci sono ovviamente un pezzo e un editoriale. E allora il pezzo è quello sull'ape sociale che raddoppia il bonus per le donne con i figli, di Davide Colombo e Marco Rogari, che mette in evidenza le innovazioni di questa proposta del governo. Ma poi c'è un editorialino, dicevo, priorità lavoro, pensione giovani, dibattito grottesco. Lo firma lo stesso Davide Colombo, da esperto previdenziale del Sole, e dice: l'anno scorso con le misure sulle pensioni sono stati impegnati altri 7 miliardi, sempre entro il 2020, che diventano 26 in 10 anni. Risultato? I risparmi immaginati nei primi 8 anni della riforma si sono ridotti a 61 miliardi. Seguendo le richieste sindacali, il saldo avrebbe potuto essere più basso. Per cosa? Dare ancora più flessibilità in uscita agli elettori pensionandi? Aumentare ancora le pensioni correnti? Tutto è possibile. I giovani? Una certezza c'è già. Pagheranno loro, scrive l'editorialista del Sole 24 Ore, i maggiori oneri decisi anche in questa legislatura. Auguriamoci di trovare a politiche invariate una buona occupazione, un'ottima retribuzione, perché siano all'altezza della sfida. Vi dicevo invece, sul Manifesto c'è una intellettuale, Chiara Saraceno, che spezza una lancia in favore della CGIL e dice, intervistata da Roberto Ciccarelli a pagina 3: è importante fare un'attenta valutazione dei lavori usuranti, chi li fa ha una speranza di vita inferiore. È altrettanto importante, dice la Saraceno, considerare le differenze fra persone con alta e bassa istruzione. Andare tardi in pensione è stato un privilegio di classe, per altri invece una condanna, perché è pagato poco. Così dice la sociologa e filosofa Chiara Saraceno, ma mi sembra improprio introdurre nella trattativa sull'innalzamento automatico dell'età pensionabile problemi più ampi, come la garanzia di una pensione ai giovani che, diventando vecchi, non avranno un assegno minimo adeguato. Il tema è: come garantirgli un reddito? Come vedete, è un dibattito appassionante, forte, che divide il paese, che contiene grossi elementi di verità. Io vi do due lampi di due opinioni opposte. Allora, su Repubblica, pagina 13, si parla di questo Berlusconi scatenato, un retroscena, anzi un colloquio. Berlusconi colloquia con la nuova Repubblica, e Scalfari dice che potrebbe dotarlo in funzione antigrillina, cioè un entente cordial, diciamo, verso il quotidiano di Largo Fochetti, il leader di Forza Italia dice: spostando le urne di 4-5 settimane si risparmia, la sentenza non c'entra, Merkel costretta a intese naturale, noi avremo i numeri. Ma il punto è questo: Berlusconi chiede di slittare al massimo le elezioni, di fare un election day e di poter votare, cioè di poter rischiare di essere candidato, perché potrebbe arrivare in tempo il giudizio di Strasburgo che lui tanto aspetta e auspica. Una foto sulle pagine dei giornali, sul Libero e su Repubblica: c'è un ragazzo con gli occhiali, i capelli corti, nell'aula nel transatlantico di Montecitorio, e voi forse non lo avete riconosciuto, io sì, è il Trota, il ritorno del Trota. Ora è l'autista di papà Bossi. A volte tornano, signori, è tornato anche il Trota. E torna anche la Leopolda. Sulla Verità, a pagina 8, c'è un po' di cattiveria nel quotidiano di Maurizio Belpietro, perché dice che alla Leopolda non ci vuole andare nessuno. Torna il rito stanco della Leopolda, scrive Marcello Mancini. Renzi festeggia prima del capolinea. Da venerdì a domenica Firenze ospita la kermesse che celebra il potere del rottamatore e dei suoi adepti. Dopo 7 anni il bilancio è negativo, slogan promesse, 0 fatti, mentre si profila la batosta alle urne. Questo è un auspicio della Verità. Però il fatto Leopolda radioattiva si sofferma su un altro aspetto, cioè sul fatto che molti ministri del governo hanno rifiutato l'invito. Questo è curioso, no? Pagina 4, la Leopolda è radioattiva, nessuno vuole più andarci. 8ª edizione, la PSAP Orlando fino a Cuperlo e big del partito, tutti rifiutano l'invito per il fine settimana a Firenze dei renziani di ferro. Per riempire la platea, il fiorentino, scrive Vanda Marra sul fatto, va a caccia dei ragazzi nati dal 90 in poi. Esclusivo, ecco le strategie dei partiti. Consigli Gin Messina, sempre sul fatto, il famoso sondaggista, vi ricordate che fu il regista della campagna referendaria di Renzi. Pagina 4, il fatto, Francesca Fornario, la compagna elettorale raccontata prima, ovviamente è satira. Allora la Gabanelli passa al Corriere, lo aveva detto a noi, non farò più un programma televisivo, farà dei video editoriali nella rete, come aveva detto lei, dove si forma la classe dirigente. A pagina 27 sul Libero il doppio colpo di Cairo si racconta, e poi ovviamente sul Corriere della Sera con le felicitazioni di Fontana, direttore del quotidiano della Rizzoli, e di Urbano Cairo. Uno smacco per la Rai che perde per 2 settimane il fatto, pagina 3, le sorelle Parodi, congelate, un po' strapazzate, l'agonia della Rai. Gabanelli approda al Corriere alla 7, sospesa Domenica Inn, schiacciata da Barbara D'Urso, soccorso di Berlusconi, sarà ospite di Fazio, oggi ai minimi. Ma sarà un soccorso? Non lo so. Però voglio segnalarvi questa notizia. Pensate, il sindaco di Spineto li organizza un corteo contro i migranti, e voi dite Libero, pagina 11, va bene, ma se ne fanno tanti di cortei contro i migranti. Sì, ma questo corteo contro i migranti è organizzato da un sindaco del Partito Democratico, è uno dei tanti esempi di gesti un po' fuori dalla procedura protocollare, diciamo così, e sicuramente anomalo, farà discutere. E De Marchis su Repubblica, pagina 8, in un retroscena ci dice che lo Ius Soli perde voti al Senato e quindi ritorna ancora in dubbio questo sofferto provvedimento, si farà o non si farà, e boh, è difficile capire, perché ogni giorno, come faccio, c'è la borsino dello Ius Soli, ogni giorno si avvicina o si allontana. E vi dicevo dei barbuti predicatori di odio, Libero, pagina 15, ci racconta questa polemica singolare sulle barbe degli uomini. La Maraini fa la femminista sui peli dell'uomo, sì, perché la scrittrice se le prende con la moda della barba maschile, la nota scrittrice italiana e compagna di Moravia Democratica, dicendo: da dove viene la pratica tutta nuova di lasciarsi crescere la barba? dai barbuti predicatori di odio, cioè dai predicatori islamici. Ma insomma, la barba ha ascendenze e storie molto più nobili. Ci fermiamo un attimo con le strade e poi torniamo. Io no che non mi schiodo, non mi schiodo, io no che non mi schiodo. Vabbè, insomma, avete capito. Mattino. Sì, Money! La grande chitarra di David Gilmour, ogni volta che la sentiamo si prova un brivido di emozione. Era l'anno 73, Dark Side of the Moon, questo è l'album più venduto della storia del rock. Ci vorrebbe sempre la frase di Gordon Gekko che non mi mettono mai, mai. Allora, in banca la rivoluzione dei bonifici istantanei, come cambia il nostro tempo, come cambiano le nostre vite. C'è un accordo fra 17 istituti europei per introdurre questa norma del bonifico istantaneo. L'hanno fatta un po' di corsa perché subivano la concorrenza del denaro su internet. Balduino Ceppetelli ce la racconta a pagina 6 del Sole come funziona. Però da in Italia il bonifico in tempo reale consente in 10 secondi, pensate, di trasferire 7 giorni su 7, 24 ore su 24 somme di denaro per un massimo di 15.000 euro ai clienti delle banche che aderiscono al sistema RT1 di EBA Clearing, la prima piattaforma paneuropea per i pagamenti in tempo reale in euro. Al momento hanno aderito 17 istituti europei, fra cui Gruppo Banca Sella, Intesa San Paolo, Unicredit. Questo strumento di pagamento, scrive Ceppetelli sul Sole, si candida a diventare una valida alternativa all'utilizzo delle carte per gli acquisti online. Allora, vi rendete conto che rispetto ai tempi biblici dei vecchi bonifici, uno o due giorni è come passare veramente dal cavallo al razzo. Il conto online è un'indagine in Banca Italia, ma vi do anche questa perché è interessante. Costa un quinto del cartaceo. E poi il corsivo Obiettivi e rischi, il denaro lampo richiesto dall'Europa di Mauro Meazza racconta: accelerare bene, non farsi male è meglio. Il debutto per ora ristretto solo alcuni istituti e il bonifico istantaneo è una comodità in più, ma può anche portare qualche preoccupazione inedita per i correntisti. Quindi questo è per farsi un'idea su questo tema assolutamente importante. C'è un altro pezzo su Repubblica, pagina 45, che ci informa di un'altra frontiera dove frigge la storia, ed è la frontiera della sfida sul futuro dell'auto. Sapete che tutti danno per morto il diesel, si dice che le ultime generazioni scompariranno entro il 2020, ma allora che cosa c'è dopo? C'è l'auto elettrica? Allora, Repubblica ci racconta, con il pezzo di Paolo Griseri a Torino, che Eni ed FCA scommettono controcorrente sul metano. Hanno firmato un accordo, racconta Paolo Griseri, low carbon, che non prevede l'abolizione totale dei combustibili fossili, e Marchionne lo difende dicendo: sì, ma guardate, per produrre energia elettrica poi bisogna consumare comunque risorse e magari si fa con il carbone. Allora, per Gentiloni la sfida della mobilità sostenibile deve essere tecnologicamente neutra, perché le tecnologie possibili sono diverse ed è giusto unire realismo e ambizione. Era prevedibile, racconta Griseri, che l'endorsement indiretto del governo alle tecnologie basate sul gas proposte da FCA ed Eni producessero la vibrata protesta della D dell'Enel, Francesco Starace, che ha definito il ragionamento di Marchionne una boutade, sottolineando che al contrario i grandi gruppi stanno scommettendo tutti sulle tecnologie non fossili, dibattito destinato a durare a lungo, scrive Griseri, e ovviamente anche noi ne parleremo a lungo. Per ora però sappiate che la Fiat punta sul metano. E voglio aggiungere una cosa sull'eco compenso, è il Sole in prima pagina. Ci sono 2 anni per i ricorsi dei professionisti, è molto importante in caso non sia rispettato. Antonio Porracciolo, a pagina 29 del Sole. Per tutti quelli che vogliono sapere come funziona e in che modo, ma la storia veramente appassionante, e arrivo a leggerla solo qui, è quella della Matari, la spia che passava i segreti del Ministero dell'Economia Ernst & Young. Pensate, i PM accusano, ci racconta Luigi Ferralella, uno scoop del Corriere, che ha preso 220.000 euro da Ernst & Young. Si chiama Susanna Masi, è anche in Equitalia. Dal 2013 a gennaio 2015 i contenuti riservati e destinati in taluni casi a rimanere segreti delle discussioni sulle norme fiscali in seno al governo e al Consiglio dei Ministri sono state, in cambio di un compenso di 220.000 euro, rivelati in diretta al colosso della consulenza legale tributaria. È una inchiesta che farà scalpore, un retroscena che vi dice che il tempo delle spie non vive solo nella mente dei grandi narratori. Andiamo alla mitragliata! Allora, Repubblica rivela i costi del nuovo iPhone. Pensate, costa 1.300 euro, il costo tecnico è 315 euro, il resto profitto per Apple. Wow! Allora, c'è un sito, a proposito di telefonini e altri beni di lusso, che vende l'iPhone a 200 euro. Voi direte, ma com'è possibile? Meno del prezzo di costo? Sì, è una riedizione della piramide, non solo l'iPhone, tanti generi, ce lo racconta La Verità, a pagina 15, tanti beni, oggetti di culto. Funziona così: tu paghi 215 euro e poi corri un rischio. Quando altre persone pagano 215 euro fino a 1000, alla fine ti mandano il telefonino. Chi rimane fregato? L'ultimo della fila, ovviamente. Il Fatto ci racconta la follia dei corsi dell'ordine dei giornalisti per la qualificazione professionale. Sapete che qualificazione professionale in qualunque paese del mondo è una cosa seria e qua è una buffonata. Pneumatici, flora, fauna, lince e lupi, così l'ordine forma i suoi giornalisti. Pensate. Allora, gli insulti nella classicità, sporco sannita, La Verità pagina 23, era l'insulto tipo degli antichi romani. E infine il centenario multato a Rimini perché seduto con un abbonamento scaduto a 20 giorni ha chiesto pietà alla controllora che però non si è minimamente commossa. Multa, multa! Le quotazioni del sole, il grano panificabile cresce, il grano duro arriva a 3 euro. Ci sentiamo dopo il GR. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino.